quarto. Nun ist der grande Sein. Ich habe es verlangt, weil ich kann nicht sitzen dort. Nicht. Okay, dann. Bene, bene. Ora direi che possiamo iniziare la nostra presentazione. Benvenute, benvenuti tutti quanti. La Biblioteca Provinciale quest'anno, nel 2023, organizzerà praticamente tutti i lunedì a quest'ora, o forse tra le 17 e le 17.30, a seconda delle situazioni, delle iniziative. E abbiamo anticipato un po' sulla tabella di marcia consueta, semplicemente per motivi di risparmio energetico, e visto che siamo in un momento un po' particolare. Però devo dire che vedo che la partecipazione fortunatamente è sempre molto calorosa e numerosa, e questo è merito anche della nostra ospite questa sera, che dopo 3 anni rivediamo con tanto piacere, ed è appunto Ada Zappelli Zucchero. Ecco, Ada Zappelli Zucchero è una nostra amica, un'amica della Biblioteca Provinciale da tanti anni. Abbiamo iniziato a presentare i suoi libri nel 2000 e... non mi ricordo. 7. Ecco, nel 2007... nell'allora sede di Via Mendola, e poi da allora siamo andati avanti. Su quel tavolo vedete le varie pubblicazioni, sono tante, dedicate alle donne, attinge al proprio bagaglio personale di esperienze, ma anche di ricordi, di vita familiare, di tradizioni perse, insomma della terra natia. È una persona che comunque ha attraversato vari paesi, varie culture, e di tutte ne è una grande esponente, ecco, le rappresenta, le ricorda, le vive e le trasmette. Ma soprattutto diciamo che ha questa vena narrativa molto, molto bella, molto interessante, intensa, che continua a coltivare, e anche a distanza di 3 anni dall'ultima presentazione, come mi raccontava prima, siamo di nuovo qui. E il fatto che voi siate così numerosi vuol dire che c'è anche questo grande interesse nei confronti della sua attività, e la ringraziamo ancora. Con noi questa sera c'è il professor Ferruccio Delle Cave, che conosce l'opera di Ada Zappelli Zucchero e quindi ci aiuterà nell'esposizione, nella moderazione e nel conoscere anche questo nuovo libro, che è appunto Il nuovo dizionario femminile. Abbiamo anche la fortuna questa sera di avere con noi un'attrice professionista, Sandra Passarello, che quindi alternerà alcuni momenti di riflessione e di discussione con invece una lettura interpretativa. Il mio compito è quello di chiudere qui adesso l'introduzione, ricordandovi che in fondo alla sala ci sono anche dei libri da acquistare, e per ogni acquisto c'è una piacevole sorpresa, mi ha detto l'editore. Ecco, di dirvi. E con questa simpatica, ecco, questo simpatico invito, io vi auguro una piacevole serata e vi invito a tornare in biblioteca non solo ogni lunedì sera, ma anche ogni mercoledì, perché da mercoledì prossimo, cioè fra 2 giorni, Fabio Ferrarese, che qui vedete impegnato, porterà di nuovo, ci accompagna di nuovo nel mondo del biblioweb, perché ci sono delle novità, quindi chi ha piacere dalle 5 alle 6 nella sala di là potrà scoprire le novità della nostra biblioteca digitale. E poi ogni mercoledì, sempre più o meno alla solita ora, ci saranno anche i gruppi di lettura dedicati alla letteratura localmente, oppure alla saggistica col gruppo Tutti Saggi. Basta, chiudo. Un mondo di bene a tutti, e un grazie ancora alla Zappelli Zucchero, che è qui con noi, e al professor Ferruccio Delle Cave. Bambino in una scatola. Qualche giorno fa ho visto su Facebook una fotografia in bianco e nero che non riesco a dimenticare, nonostante mi faccia stare male. Un campo di profughi desolato, la terra arida, propria dei paesi mediterranei, neanche un filo d'erba, ma qualche sasso sparso qua e là e chiaramente tanta polvere. Solitudine assoluta e silenzio, quasi il mondo, i rumori del mondo si fossero di colpo quietati, perché una scena simile non sopporta un suono, un alito di vento. Il tempo si è fermato appunto per il secondo in cui viene scattata questa fotografia. In primo piano una scatola di cartone, il coperchio mancante, l'orlo strappato malamente. Dentro, un bambino di forse 8 mesi, seduto, gli occhi fissi, senza un sorriso, o meglio, senza alcuna espressione, o forse soltanto un profondo stupore. Non conosce altro che le pareti di quella scatola e crede che questo sia il mondo, tutto ciò che la nuova vita gli offre. Tiene in mano, abbandonato da una parte, un biberon, chiaramente vuoto. Non ricordo il vestito, ma stranamente per me è chiaro che si tratta di un maschietto. Il suo unico vantaggio, la sua unica miserabile carta vincente in un mondo in rovina. Forse non ha neanche un nome, in ogni caso non avrà mai un certificato di nascita. Come non fosse mai nato, mai esistito. Accoccolata per terra, accanto a questa scatola, una donna che definirei senza età, giovane certo, ma non saprei darle una qualsiasi età, intenta a mangiare una minestra da un contenitore di plastica. Anche di lei non ricordo il vestito, ma il viso assente, il corpo assente, una donna assente, un essere umano, almeno per quel che riguarda le forme, del tutto assente. Vive soltanto perché non sa fare altro, non può fare altro, e vive perché mangia qualcosa, nutre quel corpo che ha soltanto una forma umana, forse anche qualche pensiero umano, ma soprattutto un ricordo, meglio una montagna di ricordi che l'annientano, che non vorrebbe avere. Ogni cucchiaiata di minestra la costringe a vivere nel presente. Nutrire quel corpo che certo non vuole avere significa prolungarne le sofferenze. Quanta desolazione in questa figura di donna. Mi sembra l'immagine di tutta la miseria umana, di tutta l'ingiustizia, la disumanità che giornalmente subisce la donna nel mondo da sempre. Non posso dimenticare questa scena, anche perché penso al passato e al futuro di questa donna e di questo bambino. Mi chiedo perché sia facile immaginare il passato di questa donna e devo pensare alle migliaia, milioni di donne che da secoli si sono trovate in questa stessa situazione, violentate, incinte, sole. Un parto più o meno clandestino, ma sicuramente doloroso, disperato, in cui il desiderio di morire supera ogni altro desiderio. Poi il bambino e la miseria estrema. Quasi la miseria senza la violenza sessuale, senza il bambino, non fosse già sufficiente alla sua infelicità. E mi chiedo ancora e sempre perché deve accadere tutto questo. Questa donna, come milioni di altre donne, penso all'India, all'Africa, forse è nata più o meno in circostanze simili, da una madre sistematicamente violentata dal marito o da un qualsiasi altro uomo, in ogni caso condannata a essere madre di tanti figli non voluti, non amati, come non è stata amata lei stessa. In ogni caso stanca, rassegnata. Un piccolo animale di sesso femminile, appartenente per caso al genere umano, ferito, umiliato, la cui vita fin dall'inizio è dipesa indissolubilmente da un uomo, prima dal padre, che magari l'ha venduta a un altro uomo per pochi soldi, ancora bambina, poi dal cosiddetto compagno che ne ha preso possesso, senza chiederle altro che di essere servito, di soddisfare i suoi bisogni sessuali, senza per questo trascurare la cura della casa, se c'è stata una casa, della cucina, se c'era qualcosa da mangiare, e tutto questo per generazioni. Donne mai fotografate da nessun fotografo occidentale, adesso, in pieno ventunesimo secolo, per mano o per capriccio di un fotografo, abbiamo la possibilità di vedere nero su bianco, un bianco sporco, devo subito dirlo, l'ultimo capitolo di questo straziante romanzo che da sempre si chiama realtà per milioni di donne. Non posso dimenticare questa fotografia. tutta la conoscenza scientifica, la filosofia, la cultura, l'arte e le religioni del mondo non possono cancellare il crimine più grande dell'umanità. Questa umanità voluta così dagli uomini, dai maschi. E non esiste alcun tribunale civile che condanni tutto questo. Temo che non ci sarà mai un tribunale di Norimberga messo su per condannare i crimini contro l'umanità, perché non si è mai fatta una guerra e quindi non ci sono vincitori ma solo vinte. Queste donne, tutte le donne nel mondo che non hanno mai avuto voce, non hanno mai avuto alcun diritto. Ancora adesso, in pieno XXI secolo, le donne non hanno il diritto di esistere dignitosamente. Posso continuare questo atto di accusa? Non credo ci sia altro da aggiungere. Solo che non possiamo più ignorare questa situazione. Oggi abbiamo tanti mezzi di comunicazione, di informazione. Il mondo cosiddetto civile deve sapere come viene trattata una parte di umanità ignorata, umiliata, sacrificata da secoli, che si cerca di non vedere, di dimenticare. Già, dall'antichità la donna rappresentava una preda di guerra. Ne abbiamo esempi addirittura nei poemi omerici e oltre. Le guerre fra gli uomini, fra i maschi, voglio ancora una volta sottolineare, hanno continuato a distruggere città, culture, intere popolazioni. Ma chi ha sempre pagato più di tutti sono state le donne, stuprate in massa, violentate, avvilite, schiavizzate. Nell'Europa del dopoguerra, e mi riferisco all'ultima guerra, centinaia di migliaia di bambini sono nati da donne stuprate, perché naturalmente i soldati avevano bisogni sessuali da soddisfare e le donne dei paesi occupati dovevano servire a questo scopo. Penso alle donne e poi ai tanti, tantissimi bambini non desiderati, non accettati dalle madri e dalla società, creature innocenti che hanno scontato tutta la vita le colpe dei padri, vite perdute fin dall'inizio, disperate e terribilmente ingiuste. Continuo a pensare al bambino dentro la scatola di cartone, alla donna che lo ha portato in grembo, e sento che questa umanità ha già fatto abbastanza disastri, che sarebbe ora di finirla. Per la prima volta desidero che esista veramente un inferno. Da non credente desidero addirittura che esista almeno una giustizia divina, dato che quella degli uomini non serve a niente, per punire in eterno questi mostri. Io non so cosa potrei aggiungere a questo articolo, che non è stato certamente il primo che ho scritto. Io vorrei sottolineare un fatto importante nella mia vita, e cioè io ho iniziato a scrivere per il dizionario biografico degli italiani dell'Istituto Treccani, e ho lavorato 8 anni per questo istituto. Quindi la mia prima esperienza è quella di scrivere delle voci. Naturalmente mi venivano dati i nomi e dovevo scrivere delle biografie di varie personalità, soprattutto cantanti, musicisti, eccetera, dato che questa era la mia specialità. Adesso, nell'arco della mia vita, che è, facciamo così, che ognuno di noi ha un arco, comincia, e io ho cominciato a 18 anni, adesso sono arrivata, diciamo, alla fine dell'arco, tanto per dire le cose come stanno, e ho deciso a un certo punto di confrontarmi con me stessa e con quello che io ho vissuto e continuo a vivere. Un giorno ho preso una decisione: non scrivo più storie inventate, scrivo soltanto ciò che penso. E quello che penso l'ho messo con questo dizionario, cosiddetto dizionario femminile, che è abbastanza diverso dai dizionari che sono già stati scritti. Questo è chiaro. Cioè è molto personale, molto soggettivo, sono le mie personali opinioni su ciò che è successo e che succede giornalmente. E questo, per esempio, è uno degli articoli, delle voci. Oh là là, delle voci che mi stanno più a cuore, devo dire, ecco perché ho chiesto di iniziare con questo. Cioè, questo è il punto nel quale noi siamo nel XXI secolo, che una donna seduta per terra con un bambino in una scatola deve scontare il fatto fondamentale, uno, primario, di essere donna. Io vorrei pregare adesso di leggere un secondo, che praticamente è l'opposto di questo, è l'ultima voce, sul titolo è violenza, no? No, vanità. Vanità. Sulla violenza ho anche scritto, è chiaro. Ma ad ogni modo, vanità. Questa è una cosa molto interessante per me quando ho cominciato a capire certe cose, certi fenomeni della nostra società. Prego. Grazie. Vanità. È sempre stata derisa una delle tipiche caratteristiche dell'universo femminile, e cioè la vanità. Ignorando volutamente che esiste anche una vanità di tipo maschile, molto più importante e pericolosa. Io voglio subito affermare che fino ad oggi questo lato tipico del carattere umano è stato fin troppo sottovalutato, anzi considerato soltanto un difettuccio più o meno trascurabile in ambedue i sessi. Secondo il vocabolario della lingua italiana Zanichelli, si tratta soltanto di una proverbiale debolezza femminile, appunto di una debolezza che mai può far parte del carattere di un uomo, un equivoco nato dall'etimologia della parola vano, cioè futile, frivolo, privo di effettivo valore, come scrive Boccaccio, oppure privo di senno, saggezza, profondità di pensiero, Petrarca, secondo il dizionario etimologico. Mi sembra molto interessante notare come Narciso, l'archetipo della vanità, fosse un uomo e non una donna. Ma i commenti di carattere culturale sono tutti scritti da uomini che hanno sempre voluto ignorare la vanità maschile, del resto molto presente anche nell'antichità, tanto da attribuire questa sindrome a un personaggio mitologico di sesso maschile. Ci si chiede se gli antichi, da un punto di vista psicologico, fossero molto più lungimiranti dei nostri cosiddetti uomini di cultura. Voglio ancora ricordare che il prototipo della vanità è il pavone e tutta una serie di animali maschi che usano la propria bellezza per conquistare le femmine, a loro volta assai modeste e incerte nella scelta del possibile compagno. Che dire? Non credo siano necessari altri commenti. Una donna vanitosa si concentra soltanto sulla propria persona, si agghinda, ha bisogno di piacere per affermare il proprio io, ma anche per essere accettata, considerandosi in ogni caso un essere debole. Si sa infatti che un'educazione millenaria è indirizzata soltanto a farne un essere modesto, umile, sottomesso, possibilmente privo di personalità, le ha tolto ogni stima di se stessa già dalla prima infanzia. Quindi ha bisogno di una strategia di difesa, una pura necessità per sopravvivere. Cerca infatti di nascondere supposte imperfezioni, soprattutto fisiche, fa di tutto per migliorarle, riuscendo nei casi più psicotici a distruggere la propria esistenza e quella di chi le sta vicino, sempre nella disperata richiesta di riconoscimenti. Nel corso dei secoli la donna ha imparato che se vuole avere successo nella vita deve essere prima di tutto bella. Deve avere un corpo perfettamente costruito, un viso che rispecchi in ogni caso il senso estetico del tempo, secondo regole stabilite dalla moda o da un'estetica di grido. E questo da sempre. Attraverso la bellezza del proprio corpo, la donna vanitosa riesce a raggiungere un certo potere, soprattutto sugli uomini. Oggigiorno, poi, nel mondo dello spettacolo, in particolare del cinema, della televisione, la notorietà le porta, oltre a un prestigio senza precedenti, anche a notevoli vantaggi di carattere pecuniario. Una vanità non proprio fine a se stessa, quindi. Ben diversa è questa sindrome nell'uomo. Ogni uomo di potere è praticamente affetto da una grave forma di vanità, e questo con effetti ben più deleteri, soprattutto per chi gli sta vicino, dato che il suo raggio di azione, come si sa, è molto più vasto di quello femminile. Purtroppo non soltanto chi sta in una posizione di potere è vanitoso. Non tutti i vanitosi arrivano alle cariche massime, la maggior parte di questi ometti restano in un ambito privato, non per questo meno distruttivo di quello pubblico. Che altro è la reazione del femminicidio ferito nel suo narcisismo dalla donna che dice di amare, se non un'ennesima dimostrazione di estrema vanità? La vanità del piccolo uomo, piccolo di statura, può arrivare a desiderare un supporto elegante che lo allunghi di qualche centimetro, come nel caso di Luigi XIV, il Re Sole, che chiese al suo calzolaio di corte di creare un nuovo tipo di scarpe col tacco alto. È diventato subito di moda nella classe dei nobili, non certo dei poveracci che dovevano poter camminare comodamente per svolgere le loro attività. E ancora, ho davanti a me un ritratto di Franz Hals, datato 1625, che riproduce uno degli esempi di vanità maschile più lampante nella storia dell'arte figurativa. Rappresenta un mercante di stoffe olandese, un certo Willem van Heytwissen, riccamente vestito, tronfio, in posa oltremodo altera, direi infantilmente e grottescamente pieno di sé, quadro che si può ammirare nella Pinacoteca di Monaco. E quanti altri ritratti mostrano uomini vanitosi, pieni di vanagloria, di arroganza, se ne potrebbero riempire interi musei. Ma questa è una forma alquanto innocua di vanità, penso alle vanità di un altro uomo di piccola statura, Napoleone, che mise l'Europa a ferro e fuoco per dimostrare la sua grandezza al mondo intero, sconvolgendo così un grosso capitolo di storia europea. Che altro è la smania di potere degli uomini se non un gravissimo segno di vanità ferita? Una sorta di rivincita sulle presunte ingiustizie subite, magari durante l'infanzia o in altre fasi della vita. Quanti esempi nella storia dell'umanità di uomini assetati di potere, travolti da una vanità sfrenata che li accecava? Ai giorni nostri basta gettare uno sguardo oltreoceano per vedere un tipo dalla parrucca rosa che trasuda vanità in ogni gesto, in ogni espressione del viso, della bocca, che purtroppo ha avuto poteri internazionali, capace di mettere il mondo sottosopra per far vedere quanto è importante. Ancora un altro tipo, molto più pericoloso, che si sente trascurato dai potenti di questa terra e ha bisogno di dimostrare la sua grandezza attraverso due formidabili porte dorate che definirei faraoniche, alte una ventina di metri, che si aprono al suo passaggio ricevendo capi di Stato europei seduto al lato opposto di un tavolo lungo una decina di metri. Ma ancora di più, scatenando una guerra fratricida con un paese confinante, finalmente in tutto il mondo si parla di lui, può entrare trionfante nella storia. Di che altro si tratta se non della vanità di un uomo frustrato da un'infanzia di solitudine, di rinunce, ma soprattutto di mancanza di amore? È questa l'origine dell'orgoglio sfrenato di certi uomini? Una vanità più grande dell'uomo stesso, incapace di essere dominata, perché un'infanzia di solitudine priva di amore l'hanno in tanti, ma per fortuna non in tutti, ha questi risvolti disastrosi. Penso che ci debba essere ancora qualcosa che mi sfugge, forse perché sono soltanto una donna e non rientra nelle mie competenze la violenza, la sete di potere, l'orgoglio sfrenato, ma soltanto la piccola vanità fine a se stessa, una debolezza tipicamente femminile. E non voglio pensare ai grandi criminali politici del secolo scorso che per una sorta di vanità patologica, sproporzionata anche per un gigante, sono riusciti a distruggere mezza Europa. Che altro è il desiderio di potere se non una forma di vanità all'estremo grado? Sto riflettendo che forse l'assassino seriale è un vanitoso, frustrato da un corpo non proprio da Adone, oltre che da un insieme di fattori che non gli offrono altro sbocco per mettersi in luce se non l'assassinio, possibilmente di una o più donne. Ma anche il fanatismo religioso mi sembra una forma aberrante di vanità. È un volersi mettere in mostra mortificandosi davanti al mondo intero. O meglio ancora, dimostrare di essere capaci di estreme rinunce anche alla vita stessa, come i martiri del passato o i suicidi attentatori di oggi, pronti a farsi saltare in aria per punire l'umanità tutta che non ha voluto riconoscere la superiorità del loro credo. Ma forse si tratta di supposizioni azzardate nel caso di assassini e criminali vari, mentre nella politica sento soprattutto un movente assai forte negli uomini e attualmente in alcune donne, che assai di rado si unisce ad altri di origine più umanitaria. Coraggio e civiltà. Ripensando alle tante persone conosciute nel corso della mia lunga vita, oggi mi sembra di aver capito uno dei nodi più importanti, almeno per me, della personalità e dello sviluppo della civiltà in generale, cioè quale relazione corre fra coraggio e civiltà. Civiltà nel senso di progresso, di superamento di uno stato primitivo di non conoscenza di sé e quindi dell'altro, superamento soprattutto di preconcetti e tabù, di ignoranza, non di nozioni ma di sentimenti. Civiltà intesa come apertura mentale a una visione non ristretta entro le mura della propria piccola vita. Civiltà intesa come libertà di pensiero e conoscenza culturale della propria storia, cioè della storia umana in generale e di quella del proprio paese in particolare. Ma ciò che ha portato la civiltà nel mondo non è il coraggio dei pionieri, dei vari Giulio Cesare, il progresso non è il prodotto di guerre e conquiste, la civiltà ha bisogno di un altro tipo di coraggio. Penso ai Fenici, certo un popolo assai coraggioso, naviganti, grandi pionieri che hanno trafficato in tutto il mondo di allora. Cosa hanno lasciato come eredità culturale al resto del mondo? Qual è il contributo al progresso della civiltà? L'alfabeto. I Fenici, con l'invenzione dell'alfabeto, ci hanno reso un gran servizio, soprattutto dal punto di vista culturale, nonostante fosse nato da pratiche necessità per i loro affari. Che ne faremo di tutti i geroglifici del mondo senza le nostre piccole lettere dell'alfabeto? Voglio concludere. Il coraggio delle azioni, vedi guerre, conquiste e altre avventure del genere, porta assai poco allo sviluppo della civiltà. È necessario il cervello, cioè l'invenzione delle piccole cose pratiche con risvolti imprevedibili, come nel caso dell'alfabeto. Non dimentico però il coraggio delle prime scoperte scientifiche nel campo della medicina, della fisica, dell'astronomia, della chimica, spesso osteggiate dal potere religioso che temeva la conoscenza come il più grande pericolo per le genti, tanto da mantenerle per secoli nell'ignoranza e nella superstizione. La scoperta di sé, però, e quindi dell'altro, secondo me, è stata la più grande prova di coraggio dell'essere umano per uscire dallo stato di incoscienza e quindi di estrema sottomissione. Ancora adesso è necessario una notevole quantità di coraggio per esplorare nel profondo dell'inconscio, per andare incontro alla prima scoperta dell'umanità enunciata da Socrate col suo famoso «Conosci te stesso». Niente di più difficile. Anche dopo secoli di scoperte scientifiche. Esiste qualcosa di più misterioso dell'essere umano? Insondabile, imprevedibile, geniale, ma anche di un vuoto abissale, a volte incolmabile. Quanto coraggio è necessario per gettare uno sguardo dentro di sé senza falsi veli o preconcetti? E prendere coscienza delle proprie debolezze, delle ferite, ma anche delle qualità che in ognuno di noi si nascondono. Quanto coraggio è necessario per accettarsi come si è e non come ci vogliono vedere gli altri, uscire dai ruoli prestabiliti dalle tradizioni, a loro volta voluti da un sistema patriarcale ormai superato, e percorrere strade nuove. Trovare se stessi altrove, oltre le gabbie delle abitudini, delle millenarie usanze, del sì è sempre fatto così, soprattutto noi donne. Questa è senza dubbio una prova di coraggio che ognuna di noi deve affrontare senza per questo risolvere il problema. Chi siamo? Chi siamo veramente noi creature di sesso femminile? Però soltanto questo tipo di coraggio conduce a una svolta civile Socrate, dopo oltre 2000 anni, continua ad essere attuale. La ringrazio e volevo salutare anch'io tutte e tutti che sono venuti a questa serata, a questa presentazione, ringraziando ovviamente anche per l'invito alla biblioteca e alla dottoressa Trevisani. Voglio iniziare con alcune esperienze, due esperienze che ho fatto, leggendo, ma non solo parlando di questo libro. Mezz'anno fa, in un'intervista organizzata dalla RAI per una documentazione sulla nostra autrice Ada Zaperi Zucker, che poi verrà presentata in un paio di mesi a Bressanone, ho sentito oggi, la moderatrice mi chiese come io sia in grado di dire che Ada Zaperi Zucker sia una femminista. Allora, ovviamente, è una femminista o non lo è? Ovviamente io ho cercato di, di spiegare a mio modo quello che... E ritornavo sempre nel mio pensiero su quello che io penso sul femminismo. E questo è uno sbaglio madonnale, perché ho poi verificato brevemente la voce femminismo in questo libro, in questo nuovo dizionario femminile, e ho letto e ho capito meglio di tante altre letture o anche discussioni quello che può essere il femminismo. E avete sentito tre brani scelti da questo libro, tre articoli, tre saggi, li chiamiamo così, tre racconti, perché questi medaglioni del dizionario, il nuovo dizionario femminile, che è a sé stante, non ha paragoni nel mondo letterario, né italiano, né tedesco, né francese, di cui io sappia. Non parte da quello che i tedeschi chiamano una Gelehrsamkeit, ich will belehren, io voglio cercare di istruire il lettore e la lettrice. No, partono da quello che è la Lebenserfahrung, che è quello che è la vita conosciuta, vissuta dell'autrice. Partono sempre da uno spunto autobiografico, biografico, come aveva già accennato Ada Zaperi all'inizio, e poi si arriva a quello che sono delle domande di base su quello che vuole spiegarci o raccontarci. Perché, a me stessa. Esatto. E molti di questi testi, ne abbiamo una cinquantina in questo bellissimo libro, che nel sottotitolo Ada Zaperi Zucker un po' chiama pensieri sparsi, ma non sono pensieri sparsi, sono molto di più, secondo me. Alla fine di tutti questi testi, di questi 50 testi, c'è sempre poi anche una domanda, un quesito a quello che è l'umanità. Come si può capire, come abbiamo sentito adesso, proprio con l'ultimo brano, come si può intendere? E non è un fait accompli, come i francesi dicono, io adesso metto giù un testo e questo vuol dire questo, e basta. E questo è molto importante nel leggere e capire bene anche questo tipo di racconto, che si arricchisce di nomi, pensiamo a Bach e Voltaire, per esempio al saggio Bach e Voltaire, dove Voltaire diventa un suo antenato quasi nello scrivere, si potrebbe anche parlare dell'Enciclopedia di Denis Diderot volendo. Ma questi personaggi entrano e poi escono dal discorso, non vengono strumentalizzati fino alla fine come usiamo noi quando scriviamo dei saggi. Ed è questo proprio la qualità, e quello che ci fa stupire quando si leggono questi saggi, questi racconti, che sono sempre personali, e questo è importante anche saperlo e averlo sempre presente. E adesso vogliamo aggiungere un breve dialogo proprio su domande di questo tipo. La prima mia domanda sarebbe, ci sarebbe da dire moltissimo, per esempio voglio solo aggiungere, perché noi a Bolzano abbiamo anche una testimonianza della Hannah Arendt, c'è un testo, La banalità del male, di banalität des Bösen, das Böse ist banal, e nessuno è mai riuscito, solo lei è riuscita, almeno per la mia esperienza di lettore, a far capire quello che in tedesco vuole dire das Böse, perché das Böse non è direttamente solo il male, è di più del male. Non so se ci siano altre parole in italiano, purtroppo io il mio italiano è un po' così, che diano l'idea di questa semantica di das Böse, no? Per cui la banalità, comunque noi tutti conosciamo questa frase, questo titolo molto importante nella storia della filosofia moderna, ma anche della storia in sé, dell'olocausto, di tutte queste cose raccapriccianti di cui abbiamo ricordato un paio di giorni fa. Ma Ada Zaperi Zucca poi va oltre, ed è la prima che si mette in discussione con la Hannah Arendt, vale a dire mette in discussione un po' quello che era questa frase in un certo contesto a Gerusalemme, con il processo a Mengele, da cui poi è nata un po' questa frase. Ci sarebbe da aggiungere ancora Heidegger, ma questo è un altro discorso. Comunque, ed è proprio qui che si riconosce la qualità di questi testi, va oltre e mette in discussione la Hannah Arendt, per poi ritornare alla fine. Sì, la Hannah Arendt è un personaggio importantissimo, però questa frase non va intesa sempre così in ogni occasione, perché anche il dottor Mengele non era banale nel discorso che fa Ada Zaperi Zucca poi in questa sua voce. Adesso chiudo, perché sennò ci dilunghiamo troppo. Il mio primo quesito sarebbe, signora Zaperi Zucca, perché un nuovo dizionario femminile? C'è stato un altro dizionario femminile nella storia? Perché lei parla di nuovo dizionario femminile. Certamente, ci sono diversi dizionari femminili, in forme diverse però. Per esempio, dizionario femminile in cui vengono elencate tutte le donne che hanno fatto qualcosa nella loro vita, un dizionario femminile. Oppure dizionario femminile nel senso come si devono comportare le donne, consigli e cose di questo genere. E io non ci pensavo minimamente a un tipo di dizionario così. Cioè, il titolo mi è venuto prima di tutto la parola dizionario, appunto, dal mio passato, il fatto di aver avuto a che fare per 8 anni con l'Istituto Treccani, quindi sapevo, e poi la mia passione per i dizionari, questo lo devo ammettere, io ho la casa piena di dizionari e non faccio altro che controllarli, e è affascinante perché ci sono citazioni del 200, del 300, dell'800, cioè io posso anche fare dei confronti sul modo di interpretare una parola nel giro dei secoli, e questa è una cosa che mi affascina sempre. Questo è il motivo di questo nuovo, che non è come tutti gli altri, cioè, e poi soprattutto è molto personale. I dizionari sono sempre impersonali. Esatto. E invece io ci metto sempre me in prima persona, scusate, un pochino di vanità ce l'ho anche io. Si lega, abbiamo sentito prima, vanità. L'ultimo saggio, sì, sulla vanità, vanitas, vanità. Esattamente. Nel sottotitolo avevo accennato a questo prima, lei parla di pensieri sparsi, il lettore invece secondo me si trova di fronte a un mondo intero che vuole essere compreso, ex novo. Wow. Non è un mondo che noi tutti conosciamo, perché è descritto così e colà, così e colà, non solo in dizionari, ma anche, nella Wikipedia, se si vuole parlare del mondo digitale, eccetera, eccetera. Ma è un mondo che vuole essere compreso, un mondo che tiene conto, e questo per la prima volta in questa forma, che l'umanità non è solo maschile, ma in larghissima parte è femminile. E questo non ha solo a che fare con femminismo, secondo me. Assolutamente. E cosa vogliono suggerirci questi pensieri, secondo lei? No, io vedo, io me lo permetto, perché sono libera davanti alla mia scrivania di fare quello che mi pare. Se poi, scusate se vi dico un esempio molto, cioè un episodio molto chiaro della mia vita. Mio figlio mi ha detto: mamma, perché scrivi sempre dei libri così difficili, cioè che non vengono accettati, o che, insomma, non proprio divertenti? Dico: ma io non scrivo per gli altri, io scrivo soprattutto per me stessa. Questo è il punto di partenza. Io scrivo perché ho bisogno di mettere sul nero su bianco, si diceva prima, adesso è il contrario, vabbè, quello che penso, e non perché qualcuno lo legga. Se lo volete leggere, io vi ringrazio molto, ma non l'ho scritto per voi, scusatemi tanto, io non ho scritto un solo libro per voi, li ho scritti soltanto per me, perché avevo bisogno di scriverli. Questo qui è una cosa un pochino strana, perché in realtà mio figlio dice: perché non hai fatto un best seller? Boh. Allora, questi sono i tipici commenti dei figli, questo bisogna dirlo. Perché secondo lui, secondo moltissime persone, si scrive per avere successo. Io ho avuto un grandissimo successo nella mia vita, lo devo dire subito, quello di essere al mondo. Il resto è tutto un regalo. Quindi io non ho bisogno di un successo di questo genere, cioè non ho bisogno di vendere 100.000 copie di un libro. Mi farei delle domande e mi chiederei cosa ho combinato, perché tanta gente voglia leggere il mio libro, insomma. Questo è chiaro. Non so, mi sono persa adesso, scusatemi tanto, ma non so più da che cosa ho cominciato. No, ritorniamo un po' al dizionario. Mi rimetta sulla linea. Faccio così perché sennò abbiamo dei rumori. No, ovviamente leggendo uno, almeno io come lettore, mi sono chiesto come ha deciso l'autrice nell'allineare le voci, quali voci siano da espletare in questo libro, quali siano le decisioni, poi quante voci all'inizio lei aveva più o meno preparato per un libro di questo genere. Naturalmente ne ho tolte moltissime. Adesso voglio raccontare come è nata questa idea. Anche questa è una storia molto personale. Io sono andata, prima che cominciasse l'epidemia, questo lo devo dire, a Massa, perché ho ricevuto un premio per un libro, eccetera. Essendo a Massa, abbiamo fatto una gita, cioè vedere la Riviera di Ponente, e siamo arrivati a Forte dei Marmi. Adesso tutta la gente che sta seduta qui sa che cosa vuol dire Forte dei Marmi, non ho bisogno di spiegarlo, ma non sa che negli anni 50, quando io ero giovane, Forte dei Marmi era la specie di, non lo so, il paradiso terrestre, il posto dove dei ricchi, della gente di potere, di tutti i tipi, il grande lusso, era veramente, per una ragazzina di 15-16 anni, era veramente Forte dei Marmi. Quando sono arrivata lì mi ha preso un accidente, lo confesso, dico: siamo noi, io, poveraccia, sono a Forte dei Marmi. E ho scritto la prima voce, perché ero talmente impressionata che ho detto: io questo lo devo scrivere. E il titolo è I ricchi e gli altri. Allora, da questo è stato veramente per me una cosa formidabile. Dopodiché ho visto, mi sono successe altre cose, e man mano si sono accumulate queste impressioni. Ecco perché pensieri sparsi, sono tutte impressioni che mi sono cadute uno dietro l'altro, e nel giro di 2-3 anni è venuto fuori una quantità di roba, fino a quando ho deciso di farne un libro. questo è nato, quindi l'ordine poi è diventato alfabetico per un motivo, diciamo, puramente da dizionario, che ha un elemento, non è il se, non è il modo come l'ho scritto. Cioè le voci e questi episodi, queste riflessioni che ho fatto mi sono venute da fuori disordinatamente e poi le ho messe insieme. Ma rispecchiano un certo ordine, non solo quello alfabetico, rispecchiano anche un ordine di pensieri, secondo me. Non è che sia una cosa che succede così perché mi piace la voce X, allora poi allineo la voce Y. Ovviamente ha una sua logica, certo, anche l'ordine di idee, perché almeno quello che è parso a me nel leggere il libro quando non era ancora stampato, mi è parso che ci sia una logica molto ferrea di quello che deve o vuole essere questo nuovo dizionario, e per quello che è anche riuscito in questo modo, perché se non avesse questo ordine di idee sarebbero dei pensieri sparsi un po' così al vento, no? Non avevo pensato. Secondo me, adesso io parlo ovviamente, certo, secondo la mia personalissima intenzione. Comunque, andando oltre a questo discorso qui, la sistematica del testo, di ogni testo di questi 50 medaglioni, ha un forte approccio all'umanità, e questo per me è più di una metafora di questo libro, è un topos importantissimo. In ogni di questi saggi lei trova quello che è la sua idea di umanità, che dovrebbe essere anche la nostra, ed effettivamente qui concordiamo sia il lettore con l'autrice. C'è una corrispondenza che nasce effettivamente, perché io posso dire la banalità del male mi interessa fino a un certo punto, io voglio andare oltre, voglio sentire che cos'è la guerra adesso. Abbiamo proprio sentito dall'ultimo saggio una descrizione, una splendida descrizione di un personaggio che tutti noi conosciamo, quello del tavolo che è stato costruito in Italia, a dire la verità, per quello che ho sentito io, non so se sia vero o no, perché i media alle volte caricano delle cose, dobbiamo stare attenti. Comunque, seduto a questo tavolo è all'altra parte, no? Ma noi tutti vediamo l'entrata di questo Napoleone russo quando entra in questo, è stato descritto in un modo bellissimo, senza citare il nome in sé, si sa già effettivamente di chi lei sta parlando. Ed è questa anche una qualità di questi testi, perché se lei dicesse il nome sarebbe questo momento magico dello scrivere anche letteratura, non ci sarebbe più. Questa è la mia opinione. Comunque si possono vedere queste cose in modo molto diverso. Io quando le avevo scritto la prima volta come reazione al testo che ho avuto in mano, ho subito consultato nella mia biblioteca di Natalia Ginzburg il lessico familiare, perché ovviamente mi è saltato in mente: questo è un libro che potrebbe essere vicino a questo nuovo dizionario. Non è così, però il libro della Ginzburg è un capolavoro anche quello, e ci aiuta a capire molte cose, racchiuso proprio in questo sistema e ordine della famiglia. E se noi leggiamo qui, c'è anche un saggio sulla famiglia, su quello che è l'ordine privato delle nostre vite in famiglia, e lei mette in discussione quello che è la famiglia, o quello che dovrebbe essere, non è. Leggetelo, adesso non voglio entrare. E lì ho trovato una corrispondenza con la Ginzburg. Ovviamente lei dirà no. Certamente. No, io prego. Mi permetto di dire che questa idea della famiglia mi è venuta da Montaigne, il che non è neanche uno da quattro soldi. 500 anni, io adoro Montaigne, accanto al mio letto lo leggo sempre, come leggo Voltaire, sono i miei compagni di vita, e lui è il primo che parla della famiglia in questo modo. E allora mi è venuto il pensiero, 500 anni dopo cosa ne è della famiglia? Lui parla anche del matrimonio, anche qui scrivo del matrimonio. Cosa è accaduto in questi ultimi 500 anni? Cosa è cambiato? Adesso vorrei invece toccare un tasto molto importante, cioè, mi scusi se mi permetto, io mi chiedo continuamente perché sono diventata così come sono. Ognuno di noi arriva a un certo momento nella vita che si chiede perché sono così come sono. Dipende moltissimo, dunque noi diventiamo così attraverso gli incontri che abbiamo fatto dall'inizio, cominciando con la madre e proseguendo. Io ho avuto la fortuna nella mia vita di incontrare due o tre persone che hanno inciso enormemente su di me, persone viventi, però io ho incontrato anche persone che vivevano come Montaigne 500 anni fa, come Voltaire 300 anni fa, come Bach, cioè sono degli incontri fondamentali che hanno formato me nel quella che sono diventata. Cioè ognuno di noi ha bisogno di confrontarsi con l'altro, e se questo altro è una personalità come Montaigne oppure come Bach oppure come Voltaire, allora ci arricchiamo. Ecco perché sono diventata quella che sono io, perché ho avuto la fortuna di incontrare due o tre persone, per esempio la mia professoressa di lettere, che mi disse tu sarai una scrittrice, e io avevo 10 anni, è cosa che mi ha fulminato, devo dire, e che ha inciso tantissimo nella mia vita, come pure l'incontro con la mia maestra di pianoforte, che non mi ha mai dato lezioni di pianoforte, questo lo devo dire, ma ha sempre suonato, e lei mi ha fatto incontrare con Bach. Lei arrivava a casa mia, si metteva a suonare la toccata e fuga di Bach e poi se ne andava. 2 minuti di lezione, vabbè, tanto io non sapevo suonare. Cioè questi sono incontri fondamentali che hanno inciso enormemente sulla mia personalità. Io quando sento Bach, io ho imparato la musica attraverso Bach, è una cosa assurda, incredibile, in Sicilia, dopo la guerra, insomma, parliamo di queste cose e dico che ho avuto una grandissima fortuna di avere questi incontri. Ecco perché sono quella che sono, perché ho avuto la fortuna di incontrare queste persone o viventi o non viventi. Ecco perché dico un libro per me, io ho accanto a me il libro di Voltaire, il dizionario filosofico che leggo da, posso dirlo, 60 anni, 70 anni, l'ho letto da 15 anni. E ce l'ho ancora a casa mia, accanto a me, e lo leggo ogni tanto perché mi aiuta a vivere veramente. Scusi se mi sono... No, benissimo. Sì, questo è una base di quello che è la sua scrittura, ovviamente. Si deve capire e si deve sapere. E, su Michel de Montaigne ci sarebbe da dire moltissimo. Comunque quello che è il prototipo del saggio, del sei di Montaigne, qui è entrato anche nell'ordine letterario del suo libro, volendo. Però questi incontri con i personaggi della storia, della cultura, con quelli di adesso, questo è il bello. Questa è la seconda, diciamo, visione di questo libro, perché ci sono sempre questi incontri, certo. E le persone, i personaggi storici non rimangono racchiusi, no, come Montaigne nel suo castello vicino a Bordeaux, non rimangono nella sua torre dove ha gli scritti, sì. No? Ognuno che passa da quelle zone, che vada a vedersi questo tipo di filosofia, anche di vita. Comunque, per ritornare al suo, è anche la capacità di osservare come vivono, come viviamo tutti noi, o come vivono i personaggi che poi entrano nei suoi racconti, e qui ovviamente andiamo oltre questo libro, i racconti, i romanzi che lei ha scritto, e sono parecchi, basta vedere qua il tavolo con tutti i libri. Io ne conosco purtroppo troppo pochi. Ah. Sì, troppo pochi. Questa capacità di osservare come vivono, come hanno vissuto e come vivono oggi, anche qui entra in un certo ordine di idee, però è la sua letteratura, è la sua scrittura. La capacità di osservare è una grande possibilità per avere una base letteraria abbastanza sicura, secondo me. Comunque, chiudiamo un po' questo discorso. Leggete il libro e avrete delle esperienze del tutto nuove, effettivamente del tutto nuove, come le ho avute anch'io, e ringraziamo, voglio ringraziare lei proprio per averci donato questo testo. Grazie a lei. Mi permetto ancora di sottolineare che uno degli incontri della mia vita è stato questo signore. Scusate se lo dico, è stato un incontro molto importante, perché l'ho conosciuto credo 15 anni fa, confesso non ricordo più neanche perché e come, ed ha inciso moltissimo, e lui ha scritto la prefazione, e volevo proprio di un libro, per modo di dire, femminista, cioè scritto dal punto di vista di una donna, una prefazione maschile. Ed è stato lui la mia vittima, però ha fatto una bellissima presentazione, devo dire. Bravo, la ringrazio sempre. Di nulla. Prego. È possibile dire due parole? Ma certo. Grazie. Gentile signora, da tempi molto recenti, e il femminismo ne ha gran parte del merito, le donne hanno acquisito la libertà di poter agire, finalmente, disintermediate dall'uomo. Stanno conquistando spazi e ruoli pubblici, istruzione, riconoscimento dei diritti fondamentali e la libertà di scegliere che cosa essere. Ma quest'ultima porta con sé un'ulteriore presa di responsabilità, e su questo molte donne non si sono dimostrate altrettanto pronte. Oggi il direttore dell'Alto Adige ha avuto la bontà di pubblicare alcune mie righe a riguardo dell'uomo e delle donne. Leggo, se lei non permette. Scusi, lei sta leggendo da un giornale? Prego? Sta leggendo un giornale? No, adesso no. Sì, adesso. Leggerò. Adesso leggerò, sì. Due righe pubblicate oggi dall'Alto Adige. Ah, ho capito. Si potrebbe dare il microfono? Ah, sì. Allora, ogni uomo di buon gusto e dotato di una certa educazione deve sentire il bisogno di chiedere venia nei riguardi delle donne per il potere che possiede. E né la liberalizzazione dei costumi né il progresso dell'eguaglianza hanno abrogato questa modalità del dovere. Faccio una postilla: sono sempre stato, sono sempre sarò dalla parte delle donne. Grazie per l'ascolto. Ma qual è la sua domanda? Sì. Un'affermazione. È un'affermazione, non è una domanda. Non è una domanda, è un'affermazione. No, non era una domanda. Ah, sono stato più che soddisfatto di quanto lei ha detto. E con il toto. Sono molto grata, perché al mondo ci sono anche degli uomini che io posso stimare ed amare, non soltanto i maschi che disprezzo. Mi scusi se faccio questa distinzione. Ho piacere di questo. Perché veramente il mondo si divide fra uomini e maschi. E i maschi sono quelli che fanno la guerra, mentre gli uomini sono quelli che vogliono la pace e che accettano anche il modo di essere civili in questo mondo. Adesso chiedo se c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda o qualche protesta o qualche contrasto, una reazione. Io sono pronta a rispondere. Prego. Nessuno. Mamma mia. È stata così esauriente che Non ci sono domande. Ma c'è qualcuno? Grazie. Vorrei se mi dicesse in che cosa consiste la sua conflittualità con la Arendt, con la banalità del male. Non ho capito cos'è. La signora chiede in cosa consiste nel testo sulla banalità del male, questo piccolo suo conflitto, questa discussione con la Arendt. Sì. Ah, sì. Si può leggere dal testo, comunque no. Lei lo dirà così. Dico, tutto questo mio articolo sulla Arendt è nato attraverso un'intervista che io ho avuto, perché non ci pensavo minimamente di scrivere una cosa del genere sulla Arendt. Chi sono io per scrivere della Arendt? Assurdo, io conosco i miei limiti, so benissimo dove è il mio posto nel mondo della cultura. C'è stata un'intervista alla televisione tedesca fra due, uno era un ex molto anziano, giudice che aveva fatto parte del processo ad Eichmann, e uno era un testimone. E queste due persone non avevano veramente nessun motivo di dire delle bugie o di dire delle cose non vere. Uno di questi era chi aveva raccolto tutta la documentazione, circa 800 pagine, ed era naturalmente interessato a far conoscere alla Arendt questa documentazione. Nel senso che la Arendt, non bisogna dimenticare che fu spedita da un giornale americano, pagata molto bene, tutto quanto le spese, era una donna famosa, siamo tutti d'accordo. Arrivò e lui le propose di farle avere una visione di tutta la documentazione prima ancora che cominciasse il processo. E questo è un grandissimo privilegio che una persona di cultura non si lascia mai sfuggire. Questo, posso dire, è come entrare in archivio. E chi si rifiuta di entrare in archivio? È assurdo. La Arendt invece rifiutò, non volle guardare la documentazione perché voleva avere un'idea personale. Da questo punto, questo significa che lui lo disse, in questo libro che lei scrisse mise una quantità di errori che non sarebbero nati se lei avesse visto la documentazione. Allora, io devo dire che ho visto anche alla televisione tedesca una lezione della Arendt che parlava a una classe universitaria. Allora, io ho l'abitudine di osservare la gente da un punto di vista anche professionale e vedere come si muove, come parla e come agisce e tutto il resto. Allora la Arendt, con tutta la sua cultura, tutto quello che vogliamo dire, è una donna estremamente arrogante, molto arrogante, estremamente, devo dire, il contrario di quello che lei dava l'impressione di essere estremamente sicura di sé, ma non lo era affatto. E questo devo dire che rientra nella mentalità femminile, quella un uomo non lo può capire. Le donne hanno nel loro DNA, nella loro origine, un fondo di insicurezza data dall'educazione ricevuta. Si può diventare intellettuale, si può diventare avere una testa formidabile, filosofi, scienziati, tutto quanto, ma dentro una donna è sempre una donna. E io posso dirle questo, che ancora adesso ogni tanto mi sorprendo con questa frase: non dimenticare, sei soltanto una donna. Ecco perché ho scritto questo articolo, diciamo, più o meno contro la Arendt, perché mi ha irritato moltissimo questo suo modo di trattare Eichmann. Eichmann non era il piccolo borghese, come lei dall'alto voleva dire, poveraccio. No, e non era un uomo banale. Era un criminale, e i criminali non sono banali. Questa è una cosa che bisogna veramente, veramente capire, che la criminalità non è banale. Questo mi ha irritato tanto che ho dovuto scrivere questo articolo. Questa è la mia risposta. Grazie. C'è qualche altra domanda un pochino impertinente? Niente, nessuno vuole sapere niente. tempo. Dimmi. Mi veniva da pensare che è vero, le persone che noi incontriamo nella nostra vita non sono mai casuali e non sono mai banali. Se noi sappiamo cogliere, raccogliamo da tutti qualche cosa e, certo, e ci arricchiamo, ci alimentiamo di questo. Così io volevo domandarti su questo libro, così, tuo figlio cosa ne pensa e tuo marito? È una vita che sta insieme a te, figli. Dunque, mio marito poveretto ormai è abituato, perché non faccio altro che bombardarlo dalla mattina alla sera, appena mi alzo facciamo colazione, allora cosa dici? E allora comincio e parto, così è abituato a tutte queste cose, lui non è impressionato. Mio figlio naturalmente non lo ha letto e non lo leggerà. Quindi siamo salvi. Lui mi ha detto, ma perché scrivi queste cose? Classico, no? D'altra parte, cosa ci si aspetta da donna? Io sono soltanto una donna e me lo ripeto ogni tanto dentro, però non così forte, dico: attenta, sei soltanto una donna. Comunque, infatti c'è una voce, ah, sì, una voce, c'è. Prego. Quindi pensa che se lo stesso libro l'avesse scritto suo marito, suo figlio l'avrebbe letto? Wow! Certo, lei ha toccato il punto, ma proprio bravissima, la ringrazio. Certo, se l'avesse scritto mio marito, mio figlio l'avrebbe immediatamente letto, questo è chiaro. Dunque, c'è anche un fattore linguistico. Noi viviamo in Germania, mio figlio ha parlato sempre italiano con me, parla ancora adesso italiano, ma non lo legge. Quindi se lui legge qualche cosa è quando è stato tradotto, e questo libro naturalmente non sarà tradotto, quindi non lo leggerà. Questo è il motivo. Però c'è anche il fattore del marito, quando è un uomo che scrive l'altro lo legge, chiaro, una donna, no. Dunque non dimentichiamo, io vengo da una generazione del prima della seconda guerra mondiale, quando nel 50 o nel 40 così non si capiva bene per quale motivo una donna doveva andare a scuola. Cominciamo da questo problema. Adesso le donne si permettono di pensare. Questa qui è una cosa veramente inaudita, inaudita, però soltanto in questa Europa vecchia e sconquassata, mentre invece in altri paesi del mondo, in Africa, nel Sud America, in India, le donne non si permettono neanche di pensare. Questo non lo dimentico mai, scusate. Voglio solo aggiungere una piccola guisa. I fatti ovviamente sono un po' diversi, perché questo è quello da cui è nato il discorso, anche il problema, però i fatti delle letterature di adesso, tedesca, italiana, francese, inglese, americana, quel che sia, non è solo maschile, ma è molto di più femminile. Vale a dire, le scrittrici di queste letterature che io adesso ho nominato, ma si possono aggiungere quelle scandinave, quelle anche delle lingue slave, eccetera, eccetera, sono per la maggior parte femminili. Certo. Se voi guardate i titoli che vengono premiati, i titoli che vanno per la maggiore, soprattutto in quella tedesca, lì gli uomini ormai sono in una minoranza molto esplicita. No. È così, no, è solo un fatto da sottolineare, è così. Non vale questo discorso, e questo è anche interessante per la musica, di cui noi parliamo molto spesso, e come musicista, cantante e critica della musica, lei lo sa, questo non vale sia per i direttori d'orchestra. Ma ce ne sono molti. Sì, adesso vengono, ma dopo quanto tempo? Già le poetesse, le scrittrici c'erano molto prima. e non vale ancora per le compositrici, ce ne sono pochissime. Se io prendo solo il discorso della musica, della e-music, musica classica, chiamiamo classica, non è giusto la denominazione, è tutto, però noi sappiamo di cui parliamo. I compositori in questa zona, in questo territorio, ce ne sono due di donne. Due? Gli altri sono solo... sono, però nei secoli passati ce n'erano molte di più. Sì, adesso parlo solo di questo territorio, ovviamente. Sì. Se noi andiamo all'estero il discorso cambia, però sono poche. Sono molto poche. Ancora? Sì. Giusto? Sì. Ancora. Comunque il mondo della musica è un po' diverso, non è paragonabile a quello della letteratura e anche alle arti visive. Se lei ha visto la Biennale di Venezia quest'anno, io ho visto solo nomi al femminile. Wow. Solo, praticamente. Ce ne sono stati pochissimi. Questa è la verità. Comunque questo non dice nulla, non è processo, no, ma è necessario. È solo una precisazione. Diciamo fra 200 anni sarà mezzo, ma noi non ci siamo più, quindi la cosa non ci interessa. Bene, io vi ringrazio infinitamente. Ah, c'è ancora qualcuno? Prego. Una cosa brevissima, la volevo ringraziare perché lei ha accennato chiaramente all'importanza che hanno certe letture nella formazione del nostro mondo interiore, certo, e nel popolare il nostro mondo interiore, certo, in maniera durevole nel tempo. E questo l'ho sperimentato in questi anni tragici di pandemia, di cui ho sofferto molto psicologicamente perché mi hanno staccata dalla comunità. No? E in quei momenti di grande solitudine, quando vedevo il vuoto totale intorno, emergevano queste figure letterarie e artistiche come se si materializzassero vicino a me per tenermi compagnia con le loro parole. Io mi ripetevo a memoria, perché nei miei tempi remoti si imparava a memoria poesie, passaggi. Questo è stato importantissimo. Io conosco meglio personaggi di romanzi di tante persone con cui sono stata a due passi per 37 anni in un condominio, ecco, quelli sono rimasti strani, questo... e invece i personaggi dei romanzi sono delle a tutto tondo. Certo. La ringrazio molto. No, ma è molto importante quello che ha detto lei, estremamente importante, perché in realtà noi viviamo con queste persone che sono dentro i romanzi o nella letteratura, viviamo anche noi e impariamo anche tantissimo, cresciamo insieme. Io senza tutta la letteratura, i libri che ho letto, migliaia di libri che ho letto dalla mia infanzia, credo che non sarei quella che sono io adesso. Questo è importante. Bene, allora molte grazie di essere venuti. È stato veramente un bellissimo incontro. 3 anni di silenzio, come ho fatto? Io la ringrazio molto, ho un po' contento della mia parte.